Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. La crisi dei mercati durerà almeno un anno, non fa sconti il commissario europeo Almunia e come lui i mercati anche oggi a picco. Scuola e università in fermento, lo sciopero è solo un rito, dice il ministro Gelmini, ma la settimana si annuncia non facile. Sotto sequestro l'ospedale di Vibo Valentia, 33 tra medici e dirigenti sotto accusa, tutto è partito dalla morte di due sedicenni ricoverate. 2 milioni o 200 mila, il Circo Massimo darà forza a Veltroni, ne parliamo con Sergio Cofferati. La compagnia aerea italiana alla prova, parte la non-stop coi sindacati per costruire la nuova Alitalia. Il sangue dei vinti fa discutere, Servillo e Verdone fanno sorridere i mille volti della festa del cinema di Roma. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. E dunque, come sentivate dai nostri titoli, la settimana sui mercati è iniziata davvero male. È già una settimana nera, siamo solo a lunedì, ma cominciamo subito col parlare di quelli che sono i fatti con Deborah Rosciani. Ancora buongiorno. Sì, buongiorno anche a voi. Abbiamo avuto questo filo conduttore da venerdì a lunedì, esattamente come venerdì c'è stato un tonfo su tutte le principali piazze finanziarie internazionali. Oggi, lunedì, riparte con la stessa tendenza che è cominciata questa mattina in Asia con cali profondissimi. Pensate che l'Hang Seng di Hong Kong ha registrato una flessione a due cifre, meno 12,70%. Il Nikkei a Tokyo meno 6,36. L'Europa ha avuto un avvio brusco che si sta mantenendo. Parigi meno 5,91, Francoforte meno 3,64, Londra meno 3,67, Milano perde 4,5 punti. Nel vortice ci sono i titoli bancari ancora i titoli automobilistici e quindi insomma questa è una tendenza ormai consolidata. In tutto questo l'euro sul dollaro è finito sotto quota 1,24 per poi riprenderlo. Il Brent a Londra, il petrolio è scivolato sotto i 60 dollari. I tassi interbancari sono in leggero calo al 4,91%, l'Euribor a tre mesi. Grazie Deborah, e sentivate anche dai nostri titoli le previsioni del commissario europeo Almunia. Ha detto: è difficile stimare la durata della crisi finanziaria, ma probabilmente le turbolenze non termineranno prima di un anno. E questa è l'opinione del commissario agli affari economici e monetari. E sui tassi di interesse Almunia ha avvertito: è giusto che il costo per finanziarsi adesso diminuisca, cioè i tassi scendano, ma non dobbiamo trovarci, ha detto Almunia, nella situazione in cui i tassi di interesse in termini reali siano negativi, visto che le esperienze passate hanno dimostrato che questi portano a un eccesso di indebitamento, ha detto ancora Almunia, a una bassa percezione del rischio e a nuove bolle che poi scoppiano. E intanto proprio dalla BCE, dalla Banca Centrale Europea, oggi alcune indicazioni arrivano. E allora sentiamo quali. Si avvicina il prossimo allentamento monetario della Banca Centrale Europea. Ormai il mercato punta alla riunione del Consiglio Direttivo all'inizio di novembre, anche se non è possibile escludere decisioni anticipate e coordinate con altre banche centrali, come è successo all'inizio di ottobre. Il tasso di riferimento nella zona euro è oggi al 3,75% e alcuni osservatori non escludono allentamenti monetari addirittura di 75 punti base. Gli ultimi dati sulla massa monetaria in circolazione nella zona euro lanciano segnali ambigui. I prestiti bancari al settore privato continuano sorprendentemente a salire dell'8,5% in settembre dall'8,8% di agosto. Le cifre restano positive, ma nascondono probabilmente differenze tra paesi. In Germania, per esempio, la situazione dei flussi creditizi verso le imprese appare assai più problematica. Beda Romano, GR24, il sole 24 ore, Francoforte. E a sperare in segnali ottimistici questa mattina anche il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. A dispetto di un momento molto complesso e di una crisi finanziaria estremamente profonda, ha detto Marcegaglia parlando a un congresso dell'ABI, bisogna sempre tenere presente che non si sta assistendo alla fine del mondo e del mercato, usciremo da questa situazione. E vi ricordiamo che la diretta sul sito del Sole 24 Ore, il sole24ore.com, alle 15:15, proprio per seguire la crisi con esperti e commentatori. Settimana questa che sarà decisiva decisiva anche per la protesta nelle scuole. Mercoledì è in programma il voto finale al decreto Gelmini, giovedì sarà sciopero generale della scuola. In parallelo vanno avanti anche le manifestazioni nelle università, ma oggi è toccato decisamente agli studenti delle superiori. A Roma in corteo verso il Senato c'è stata anche qualche spaccatura, ma ci racconta tutto la nostra Francesca Malaguti. Buongiorno Francesca, dove sei? Buongiorno, mi trovo in questo momento in piazza Navona, dove è appena entrato il corteo degli studenti dei licei e degli istituti superiori di Roma, partito da Piazza della Repubblica questa mattina. Gli slogan sono sempre i soliti, contro la riforma Gelmini e contro i tagli del decreto 133, ma questa mattina anche gli universitari di Roma 3 hanno organizzato una lezione di filosofia politica nella vicina piazza Farnese, anche se è da registrare una scarsa affluenza, quindi comincia a esserci dopo tanti giorni qualche segno di debacle di questa protesta. Intanto il ministro Gelmini ha detto proprio ieri: lo sciopero è il solito rito di chi difende l'indifendibile e si andrà avanti comunque. Sentiamo la risposta del segretario generale della UIL Scuola, Massimo Di Menna. Lo sciopero, come le altre manifestazioni, hanno degli obiettivi concreti precisi, lo vedremo nella giornata di giovedì, per un processo di razionalizzazione, di tagli sul sistema della scuola pubblica che crea molte preoccupazioni. Occupazione e molte tensioni, quindi i lavoratori hanno questa modalità di rappresentare il disagio, la protesta. Ecco, ora il corteo è giunto in piazza Navona, tutto si sta svolgendo in modo pacifico, è composto da qualche migliaia di studenti, per il momento da Roma è tutto. Grazie a Francesca Malaguti. Sentivamo dov'è la nostra inviata durante il percorso in un'altra zona del corteo. C'è stata invece una spaccatura tra testa e coda davanti il blocco studentesco di estrema destra che ha intonato il coro Duce Duce, in coda studenti di sinistra che hanno tentato all'altezza di via Cavour, all'altezza di via dei Serpenti, di modificare il percorso della loro manifestazione per dirigersi verso il Ministero dell'Istruzione. Una volta giunti però in via dei Fori Imperiali sono stati convinti dalle forze dell'ordine, che hanno sbarrato con un cordone l'accesso verso il Colosseo, a proseguire con il percorso. Manifestazione che, dicevamo, comunque sta ancora proseguendo in questi istanti. E adesso però continuiamo, come abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, ad entrare nel merito della riforma della scuola che, come stiamo vedendo anche in queste ore, continua a scaldare gli animi. Parliamo questa volta di quali sono i progetti che riguardano le scuole piccole. Sentiamo Roberta Pellegatta. La rete scolastica va razionalizzata, lo prevede la legge 133. La scadenza per questo ridimensionamento è invece fissata nel decreto legge numero 154/2008, intitolato Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria, che però all'articolo 3 si occupa anche di scuola. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti già a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. L'obiettivo da conseguire sin dal 2009-2010 è un risparmio di circa 950 milioni di euro annui. Come? Andiamo per ordine. In Italia ci sono circa 42.000 scuole, intese come plessi, sedi distaccate e così via, mentre le istituzioni scolastiche, autonome, con presidenza, segreterie, impiegati, eccetera, sono circa 10.800, ognuna delle quali deve avere, per essere in regola, dai 500 ai 900 alunni. Esiste la possibilità di deroga nei casi di piccoli comuni montani o piccole isole a cui si consentono istituzioni sotto i 500 e fino ai 300 alunni. Si è calcolato che delle 10.800 istituzioni, 1.700 siano irregolari, perché con meno di 300 alunni o perché presenti nella fascia in deroga senza averne diritto. Le regioni avrebbero già dovuto procedere a sopprimere o aggregare le scuole irregolari, ma questo sino ad ora non è successo. Ecco dunque, a sveltire le procedure, il già citato decreto legge che prevede per quegli enti locali che non rispettino le scadenze un commissariamento, misura che da più parti viene vissuta come un diktat. Liste bloccate, niente preferenze, sbarramento al 5%, aumento delle circoscrizioni da 5 a 10, parità di genere tra uomini e donne nelle liste, tetto alle spese elettorali. È il testo di riforma della legge elettorale per le europee, votato in commissione solo da Popolo della Libertà e Lega, che oggi approda l'esame dell'Aula della Camera. Su di esso si attende una delicata partita nei rapporti tra maggioranza e opposizione e all'interno del centro-sinistra. Avremo occasione di parlarne oggi nelle edizioni di GR24. 4. Ma intanto c'è ancora anche un'altra battaglia sulla manifestazione di sabato al Circo Massimo, ne parleremo tra poco, tra l'altro anche nella nostra intervista. Sì, battaglia di interpretazioni e di numeri, ma anche la satira oggi si spende sui quotidiani con le vignette. Se Crancic sul giornale vede un The Day After, un Veltroni con in mano un palloncino del PD, intorno però solo carte stracce e bottiglie vuote, quindi un Veltroni che rimane da solo con la bandiera della protesta, invece Giannelli vede un Veltroni vestito da cavallerizza all'interno di un circo su un cavallo con D'Alema e Fassino che battono le mani e diciamo lo fanno girare intorno. Il titolo è: cavalcare la protesta è sempre il numero di maggior successo. La cronaca ci porta nel mondo della sanità calabrese, di nuovo nella bufera. Sono 33 gli avvisi di garanzia notificati dai carabinieri su ordine della Procura della Repubblica di Vibo Valentia ad altrettanti medici, dirigenti e responsabili di settore dell'ospedale civile Iazzolino della città calabrese. Il provvedimento scaturisce dalle indagini sulle inadeguatezze strutturali dell'ospedale e sulla morte di due ragazze, Federica Monteleone ed Eva Ruscio, e viene disposto anche il sequestro di alcuni reparti, ortopedia, immunoematologia, pronto soccorso, per le gravi inadeguatezze evidenziate nel corso delle ispezioni fatte dai carabinieri del NAS. I reati contestati ai 33 funzionari vanno dall'abuso d'ufficio all'illecito stoccaggio di rifiuti speciali. Gravissimo il quadro che è apparso ai carabinieri durante le loro perquisizioni. Filippo Veltri, GR24, Sole 24 Ore, Vibo Valentia. C'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 questa mattina tra le isole Eolie e il Golfo di Patti, poco prima di mezzogiorno. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione in tutta la provincia di Messina. I comuni più vicini all'epicentro sono Barcellona, Pozzo di Gotto e Terme Vigilatore. Per il momento non si hanno altre notizie. Andiamo a Roma per parlare di cinema. Il caso del giorno ieri è stato Il sangue dei vinti, ne parleremo anche noi più avanti. Prima però vi raccontiamo un altro episodio, l'incontro con il pubblico tra Verdone e Servillo all'Auditorium di Roma, dove c'era la nostra Marta Cagnola. Il giorno e la notte, ma solo in apparenza. Uno sbanca da 30 anni i botteghini con le sue commedie, l'altro è diventato l'attore del momento grazie a Il Divo e Gomorra, ma ha una carriera, anche teatrale, importantissima alle spalle. Carlo Verdone e Tony Servillo a Roma si sono definiti non così diversi. Apparentemente diversi, ma poi in realtà credo che io e Tony siamo due persone che amiamo osservare. Ci piace osservare il dettaglio. Ecco, per esempio, lui, una cosa che mi piace moltissimo di Tony, che a differenza mia, io muovo moltissimo la faccia, in 60 secondi farò 360.000 espressioni, è un continuo, ma lui invece ne fa 6, 7, poche, ma sono sempre di un'efficacia, è questa la sua grandezza. Come voi, un fan, cioè un ammiratore sincero di Carlo, a cui devo la riconoscenza che gli spettatori hanno nei confronti dei grandi comici, cioè di quelli capaci in momenti difficili di allontanare, di alleggerire la tristezza del mondo. Oh, colete! Oddio, la miniatura! Ma era un po' dimenticata, perché questa è la sua scena preferita. Lui quando se ne ride mette questa scena. Io dico, sono contento che ti sia una che sia un antidepressivo. Non c'è niente appunto di preparato. Una volta detto, insomma, non parlare tanto di noi. Quello che può essere interessante è come invece un comico può raccontare attraverso la comicità zone profonde di disperazione, come invece a volte un ruolo disperato riesce a essere efficace attraverso una punta di comicità. Questa è la ragione per cui poi la piccola ambizione di questo incontro sta nel tentativo di evitare che in un paese che invece in questo è molto allenato ci siano degli steccati che evitano le comunicazioni, farebbe bene anche a tante altre cose più importanti del nostro paese. No? 13:18 minuti, GR24 Extra Large. Ancora una giornata di sofferenza per i mercati finanziari, prima quelli asiatici, poi le borse europee. Il commissario Almunia sarà così almeno per un anno. Ancora in ebollizione il mondo della scuola. A Roma, corteo di studenti superiori stanno marciando verso il Senato. Il ministro Gelmini sullo sciopero di giovedì accusa un rito di chi difende l'indifendibile. Abbiamo degli obiettivi, ribattono i sindacati. Avvisi di garanzia e sequestri all'ospedale di Vibo Valentia. 3 reparti messi sotto sequestro, ortopedia, immunologia e pronto soccorso. 33 tra medici, dirigenti e funzionari le persone avvisate. Erano in ritardo gli interventi per la sicurezza. Tutto è partito dopo la morte di 3 ragazze di 16 anni. 200.000 o 2 milioni al cerco massimo. Il Partito Democratico riparte dopo la manifestazione di sabato e noi ne parliamo con Sergio Cofferati. Lunedì nero per i mercati finanziari, ve l'abbiamo detto più volte, andiamo subito allora con un altro aggiornamento con Deborah Rosciani, come vanno le cose? Non è molto migliorata la situazione rispetto al nostro ultimo collegamento, Parigi ancora in flessione di quasi 6 punti, Francoforte meno 3,79, Londra meno 3,70, S&P MIB a Piazza Affari meno 4,48, giornata di vendite pesantissime su tutto il comparto bancario, a Piazza Affari il peggior titolo adesso è la Popolare di Milano, cioè dell'11,45%, segue Tenaris meno 9, Intesa San Paolo meno 9. I cali riguardano quasi prevalentemente il comparto finanziario, bancario e automobilistico in tutta Europa e in pratica in Europa si sta replicando quello che si è visto questa mattina in Asia, dove gli indici hanno chiuso in ribasso pesantissimo. Per esempio l'Hang Seng di Hong Kong ha perso il 12,7%, ma nel corso della seduta, vi racconto questa cosa, il listino ha segnato un ribasso anche del 15,4% sui livelli segnati nell'89 dopo i fatti di piazza Tiananmen. È tutto. Grazie, ci risentiremo più avanti con altri aggiornamenti. Ne abbiamo parlato anche nella prima parte. Sabato c'è stata la manifestazione del Partito Democratico a Roma. 2,5 milioni di persone hanno partecipato, secondo gli organizzatori, molti meno invece per la questura, 200.000. Ma insomma, al di là del numero reale di persone che hanno sfilato a Roma e che si sono poi riunite al Circo Massimo, la manifestazione, la vigilia si era detto anche un banco di prova per il segretario del Partito Democratico Veltroni. Banco di prova superato, ne parliamo con Sergio Cofferati, sindaco di Bologna, nonché naturalmente esponente di rilievo del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, lei, come molti ricorderanno, la segretaria della CGIL nel 2002 sul palco del Circo Massimo c'è salito di fronte a quasi 3 milioni di persone. Anche qua, nei suoi ricordi, lei c'era sabato alla manifestazione del PD. Che impressione le ha fatto e quanti erano davvero, secondo lei, i manifestanti sabato al Circo Massimo? L'impressione è bellissima, c'erano tantissime persone. Le parole dette da Veltroni erano le parole giuste, il tono era quello efficace per proporre un progetto politico fatto di tanti argomenti che si concatenano tra di loro, dunque non un semplice contrasto all'azione non condivisa del governo di centrodestra, ma delle proposte alternative presentate al Paese. Io credo che in una manifestazione contino moltissimo il merito, la proposta che avanzi, perché quando sei di fronte a problemi oggettivi, se le scelte dell'altro, del tuo avversario politico non ti convincono, non va bene, le devi contrastare, ma devi anche indicare con precisione le alternative. E poi conti moltissimo il clima. Il clima era molto bello, persone preoccupate, ma anche molto serene, determinate e pacate, che è il modo giusto per stare in piazza. Poi erano tantissimi. Lei ha detto prima, prescindiamo per un attimo dalla disputa sulle dimensioni, se non si offende io non sono d'accordo, non vorrei prescindere. No, ecco, infatti abbiamo chiesto un suo parere da questo punto di vista. Mi sento offeso da chi mi vuole cancellare. Si può avere opinioni diverse da quelle che ha espresso Walter Veltroni, ma negare la presenza di milioni di persone è un pessimo gesto, perché si interviene su una sfera molto delicata, che è quella del riconoscimento e del rispetto del proprio interlocutore. Non si dovrebbe mai arrivare a quel punto, è un problema molto serio. Negare l'evidenza, cercare di cancellare il proprio interlocutore è un errore grave che non dovrebbe essere mai commesso, perché mette in discussione il rispetto reciproco. Cofferati, secondo lei, se non ci fosse stata questa onda lunga di protesta nelle università e nelle scuole, sarebbero stati altrettanti in piazza? E le chiedo, quali sono i temi che secondo lei ha portato la gente al Circo Massimo sabato? Io non ho mai avuto dubbi sulla riuscita della manifestazione, che ero certo che progressivamente, una volta che il tema giustizia, importantissimo, e che aveva preso l'attenzione degli organi di informazione per lungo tempo, sarebbe rientrato nel suo normale ambito, sarebbero apparse chiare le azioni del governo contenute nella legge finanziaria. Quella della scuola ha delle scadenze ravvicinate, ma anche le altre. Il mancato sostegno alle azioni di riconversione di una parte dell'apparato produttivo. Sono peggiorate le condizioni materiali di tante persone. E questo si sarebbe progressivamente e inevitabilmente percepito. Da qui la convinzione che la manifestazione sarebbe stata grande. Sindaco, qualcuno ha detto prima di questa manifestazione del Partito Democratico, in realtà, e anche dopo, lo stesso Presidente del Consiglio Berlusconi ha detto è un problema di competizione interna del centro-sinistra. Si è parlato molto della competizione, per esempio, con Di Pietro da parte del PD, ma adesso, dopo questa manifestazione, cambierà in qualche modo il modo di fare politica del Partito Democratico? Sarà più o meno combattivo, più o meno dialogante? Ma guarda, intanto la manifestazione è stata decisa tantissimo tempo fa, quando anche i rapporti interni all'opposizione erano diversi da quelli che sono poi progressivamente diventati. Io credo che la manifestazione dia molta energia e molta forza alla proposta politica del Partito Democratico. L'opposizione in Parlamento, contrapponendosi a delle politiche non condivise, indicando delle alternative e poi utilizzando anche altri strumenti. Non c'è una separazione o una contrapposizione tra il Parlamento e la piazza. L'azione parlamentare può essere sostenuta anche dal coinvolgimento di milioni di cittadini con tutte le forme che la democrazia rende possibili. Basterà il Circo Massimo per rendere più forte Veltroni? Veltroni è stato investito della responsabilità che ha da un plebiscito alle primarie del Partito Democratico. La sua leadership è stata riconfermata dalla manifestazione dell'altro giorno. Non c'era nessuna ragione perché venisse messa in discussione prima, non c'è nessuna ragione perché non si veda adesso quanto Walter sa incarnare il sentimento diffuso degli elettori e degli aderenti al Partito Democratico. Cofferati, a qualche giorno di distanza e settimana di distanza dalla sua decisione, che ormai tutti conoscono, di non ricandidarsi a sindaco di Bologna. E diciamolo, è in viaggio anche questa mattina, così spieghiamo ai nostri ascoltatori, la linea è un po' disturbata. Decisione pendolare di famiglia. Per motivi familiari, insomma, una decisione che ha fatto anche notizia. Lei che con il Partito Democratico a Bologna in qualche modo ha aperto un po' la strada a alcune delle future decisioni di Veltroni, per esempio la rottura con Rifondazione, una linea politica nuova per certi aspetti che poi lo stesso Partito Democratico ha imboccato successivamente. Ha qualche rimpianto adesso nel lasciare questa avventura politica? Ma guardi, mi sarebbe piaciuto ricandidarmi, provare fare il sindaco per altri 5 anni a Bologna, come ho detto. Lascio Bologna per una ragione familiare, penso sia giusta la decisione che ho preso. Poi io credo di avere ancora un po' di energia e di avere anche voglia di continuare a occuparmi di politica. Se ci saranno delle cose che potrò fare, le farò ben volentieri. L'unica condizione che porrò in quel caso è di poter avere un'attività che non mi allontana da mio figlio e dalla mia famiglia. Penso di poter fare ancora delle cose. Benissimo. Mi piace di non poter completare alcune delle cose che avevo cominciato. Una su tutte di queste cose? Tra quelle che ho iniziato? Sì. Ma guardi, si farà una grande stazione a Bologna, abbiamo promosso un bando internazionale. La completerà il prossimo sindaco, io sono contento di averlo deciso. Grazie allora Sergio Cofferati, buona giornata, grazie per essere stato anche con noi. Anche a voi. Ringraziamo Sergio Cofferati e ci spostiamo in tutt'altra regione. Sono ancora in corso le operazioni di spoglio dei voti per le provinciali in Alto Adige, vi aggiorneremo nel corso della giornata, ma intanto ci sono già delle previsioni su un exploit della destra tedesca, alimentate anche dall'esito delle recenti elezioni svoltesi nelle vicine Austria e in Baviera. Cresciuti, triplicando i consensi, almeno stando ai dati arrivati fino ad ora, il partito che fu gemello di quello di Jörg Haider. Questi risultati parziali fino ad ora, vi aggiorneremo, come dicevamo, nel corso della giornata. E adesso andiamo in Medio Oriente, dove c'è da raccontare un evento sportivo che, come a volte capita, anticipa gli altri eventi politici. Ci sono gol che vengono realizzati sul campo di calcio e noi, con il volere di Dio, vogliamo realizzarne altri reti, ma su un altro campo, quello politico. Con queste parole, un raggiante Abu Mazen ha salutato la folla di palestinesi accorsi ieri alla periferia di Gerusalemme, come scrive oggi la stampa araba, per vedere la prima partita di calcio giocata a casa tra la nazionale di uno stato che non c'è e la Giordania. L'evento è di quelli storici e i media arabi sottolineano il generale entusiasmo per la rinascita del calcio palestinese. A spiegare meglio le speranze riposte in una semplice partita di calcio è il quotidiano Al-Hayat, che dà notizia di un altro incontro avvenuto sempre ieri in un quartiere di Baghdad tra una rappresentativa sunnita e una degli acerrimi nemici sciiti. I colpi dei mortai e le pallottole dei cecchini sono stati sostituiti per un giorno da calci dati per gioco ad una sfera, scrive il giornale, e auspica che la diplomazia del pallone, in Palestina come in Iraq, possa dove hanno fallito tutti. Adib Fatah Ali, GR24, Sole 24 Ore. 13:35, GR24, le notizie extra large. Ancora una giornata di sofferenze per i mercati finanziari, prima quelli asiatici, poi le borse europee. Il commissario Almunia sarà così ancora per un anno. Ancora in ebollizione il mondo della scuola, a Roma corteo di studenti superiori stanno marciando verso il Senato, il ministro Gelmini sullo sciopero di giovedì intanto accusa un rito di chi difende l'indifendibile. Abbiamo degli obiettivi, ribattono i sindacati. Avvisi di garanzia e sequestri all'ospedale di Vibo Valentia. 3 reparti messi sotto sequestro, ortopedia, immunologia e pronto soccorso. 33 tra medici, dirigenti e funzionari, le persone avvisate. Tutto è partito dalla morte di 2 ragazze di 16 anni. A Bolzano cresce la destra gemella di Haider alle amministrative in Alto Adige. Secondo i primi dati sarebbe triplicata. Parte la trattativa non stop per la nuova Alitalia. La CAI convoca i sindacati per stabilire i criteri per i 3.350 esuberi. Meno 8 al voto, l'America dovrà scegliere tra Obama e McCain. Pesa sempre più la situazione economica. Entro il 31 ottobre la CAI, la compagnia aerea italiana di Colaninno, deve presentare l'offerta vincolante per acquisire l'Alitalia. Nel frattempo però manca ancora l'accordo tra la stessa CAI e i sindacati sui contenuti del contratto di lavoro. L'accordo non si cambia. Colaninno punta a chiudere la trattativa in tempo per l'assemblea straordinaria di CAI. Il presidente della cordata italiana ribadisce che le due sole cose che potrebbero fermare l'operazione Fenice sono il no dell'Unione Europea e il no dei sindacati. Ma alla possibilità di un no dei sindacati Colaninno non crede. L'accordo sottoscritto a Palazzo Chigi ha un senso e adesso si tratta solo di recepirlo nella stesura dei contratti, afferma Colaninno, che dunque non vede problemi. I sindacati invece qualche problema lo vedono, come spiega Francesco Staccioli, responsabile nazionale degli assistenti di volo dell'SDL, il sindacato dei lavoratori. Non c'è accordo sul testo contrattuale, non è stata affrontata la parte economica, quindi mancano pezzi importanti, tra i quali la stesura dell'intero sistema dell'impiego, dei riposi e dell'ordinamento delle figure professionali a terra. Sulla grande questione dei criteri di assunzione, della gestione delle basi operative, di come insomma partirà la CAI, tutte le questioni sono aperte. Tra tutte queste questioni, il nodo dei criteri di assunzione resta quello più delicato e più difficile. Parole testuali dello studio legale che si è impegnato in questa negoziazione: non avrebbero cercato persone con rigidità intrinseche, maternità, persone che usufruiscono la legge per l'assistenza a disabili, persone che attingono alla legge sulla paternità e maternità, potevano essere escluse da questa assunzione. Poi Sabelli ha fatto un parziale dietrofronte, comunque confermando la necessità di CAI di scegliersi il miglior materiale umano al minor costo. Su questo argomento siamo enormemente distanti. Il punto è che questa è la settimana decisiva per la nuova Alitalia. La CAI dovrà varare il passaggio da SRL a SPA, l'aumento di capitale da almeno 1 miliardo di euro e il via libera all'offerta vincolante, che dovrà arrivare sul tavolo del commissario Fantozzi entro e non oltre il 31 ottobre. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. Andiamo oltreoceano. Obama che perde terreno nei sondaggi ma sempre in vantaggio, McCain che bacchetta la sua vice, questo accade ormai a 8 giorni dal voto americano. Ma quello che noi oggi vogliamo iniziare è un viaggio di Radio 24 all'interno dei programmi dei due candidati alla Casa Bianca. E allora cominciamo dall'argomento più importante di questo periodo. Un solo tema ha dominato la campagna elettorale americana dalla seconda metà di settembre: l'economia. La crisi finanziaria ha travolto, spazzando via numerosi altri argomenti che avevano fino ad allora animato il confronto, lasciando spiazzati gli stessi due candidati alla Casa Bianca, i quali solo a metà ottobre hanno presentato nuove proposte. I know these are difficult times. And I know folks are worried. Barack Obama ha presentato un piano di sostegno per la classe media interamente centrato su una parola: jobs, occupazione e posti di lavoro. Il primo punto del piano garantisce sconti fiscali alle aziende che assumono, seguono gli stimoli ai consumi, una moratoria di 3 mesi sui pignoramenti e un'operazione straordinaria di Fed e Tesoro per la concessione di crediti agli stati e ai comuni in difficoltà. Il piano costa 60 miliardi di dollari sui prossimi 2 anni, che si aggiungeranno ai 115 miliardi di misure per il rilancio dell'economia già delineate la scorsa estate. Il giorno dopo è arrivata la risposta di John McCain, che ha presentato un suo piano economico da 52 miliardi di dollari, che prevede ulteriori riduzioni delle tasse, andando così ad aggiungersi al precedente pacchetto da 300 miliardi a favore delle famiglie messe in ginocchio dai mutui subprime. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore. Salutiamo la nostra Giulia Crivelli. Ciao Giulia, buongiorno. Buongiorno. Per andare naturalmente sulle pagine dei giornali stranieri, io comincerei con il New York Times, che si occupa d'Europa. Sì, il New York Times, naturalmente, come possiamo immaginare, grandissimo spazio alla campagna elettorale, ma questo, essendo un giornale, come posso dire, molto serio, si occupa anche di noi, dell'Europa. La crisi ha colpito, lo sappiamo, tutto il mondo, e anche in particolare, spiega il New York Times in un lungo articolo, la Polonia, la once hot Poland, quindi quella che fino a poco tempo fa era l'economia calda, l'economia da che tutti guardavano, il paese con tassi di crescita nell'est Europa più alto, adesso risente della crisi. Naturalmente c'è il credit crunch, c'è il fatto che moltissime banche, Unicredit in testa per esempio, avevano anche molto puntato sulla Polonia. Le crisi a casa vengono poi esportate in questi nuovi mercati, quindi da una parte la Polonia risente della crisi del credito e, come in ogni economia, come sta accadendo anche qui da noi, a cascata tutta l'economia reale soffre per le crisi dell'economia finanziaria. In Gran Bretagna un dibattito che da noi avrebbe sollevato un polverone enorme. Sì, insomma, come vediamo poi alla fine ci sono questi temi che sulla privacy, su come la polizia si può confrontare con il pubblico, che sollevano grande la sicurezza, insomma. In questo caso in Gran Bretagna la polizia avrà in dotazione, per ora in fase sperimentale, dei dispositivi, una notizia sulla prima pagina del Guardian, che consentirà di prendere le impronte digitali lì sul posto, quindi senza portare in commissariato e senza neanche fare tutti gli accertamenti necessari fino adesso. Cioè, uno prima deve essere accusato di qualcosa davanti a un pubblico ufficiale, possibilmente magari in una stazione di polizia, prima che gli vengano chieste le impronte digitali. Invece i poliziotti britannici, che lo ricordiamo però non sono armati, hanno soltanto il loro famoso manganello, potranno fare questa operazione anche in strada. Grazie Giulia Crivelli, con te ci fermiamo qua, sono le 13:42, dunque siamo ancora in tempo per i consigli per il pranzo del nostro gastronauta. No, non lo possiamo sentire ora, lo sentiremo forse più avanti, il nostro Davide Paolini. Ancora in ritardo, in tempo almeno per chi, come per noi, è ritardatario, e come lo è anche il nostro Carmelo in regia, dal quale aspettiamo un cenno, ecco. Il gastronauta. Oggi per mezzogiorno di cuoco, cari gastronauti, vi consiglio un ristorante, un locale ad Alba che si chiama Piazza Duomo. Ebbene, questo locale è distinto in due ristoranti. Bene, al piano superiore il ristorante gastronomico, ma oggi non parleremo di questo, parleremo del locale al piano inferiore che si chiama La Piola. Si chiama La Piola ed è un locale che si affaccia sulla piazza, che ha tra l'altro anche un piacevole dehors. E qui con una ventina o poco più di euro si possono mangiare dei piatti tradizionali langaroli e bere un bicchiere di vino. Si possono mangiare i tagliarin, si può mangiare il vitello tonnato, la salsiccia di Bras, si possono mangiare i formaggi, ovviamente accompagnati da vini eccellenti, perché le langhe offre dei grandissimi rossi ma anche qualche bianco. Ebbene, dicevo, al piano di sopra c'è un'altra tipologia di ristorante, ma quello potrete andare la sera. Io a mezzogiorno vi consiglio appunto di andare in questo piccolo locale che è sempre sotto la grande guida di un cuoco che si chiama Enrico Crippa, quindi si può benissimo stare molto ma molto sicuri. Un locale tra l'altro molto piacevole, con dei piatti veramente bellissimi disegnati da grandi artisti americani. Ve lo ricordo, Piazza Duomo, il ristorante si chiama La Piola perché è al piano terreno, da non confondere col ristorante gastronomico che sta al piano di sopra, ed è in Piazza Risorgimento al numero 4 di Alba. Buon appetito! 13:46 minuti, GR24 Extra Large con le notizie di oggi. Ancora una giornata di sofferenza per i mercati, prima quelli asiatici, poi le borse europee. Il commissario d'affari economici Almunia dice sarà così ancora per un anno. Bolzano cresce la destra gemella di Haider alle amministrative in Alto Adige, secondo i primi dati sarebbe triplicata. Avvisi di garanzia e sequestri questa mattina all'ospedale di Vibo Valentia. 33 tra medici, dirigenti e funzionari le persone avvisate. Il procuratore, c'è pericolo per l'incolumità pubblica. Ancora in ebollizione il mondo della scuola. A Roma, corteo di studenti superiori verso il Senato. Il ministro Gelmini sullo sciopero di giovedì prossimo intanto accusa un rito di chi difende l'indifendibile. E allora ve lo abbiamo detto più volte, giornata nera, lunedì nero per i mercati finanziari. Torniamo con Deborah Rosciani a vedere a che punto è la giornata, come vanno i listini. Deborah. Stanno andando ancora male, non sono cambiate molte le prestazioni rispetto al nostro ultimo collegamento. Cali attestati ad oltre 3 punti in questo momento a Londra e a Francoforte. Parigi più pesante, meno 5,87. Piazza Affari meno 4,40 sull'S&P MIB. Ribadiamo ancora nel vortice delle vendite i titoli del settore bancario e automobilistico. Tra l'altro anche Wall Street sembra orientata oggi ad aprire di nuovo in calo pesante. Le agenzie indicavano cali previsti intorno al 3-4% per i principali indici, e tra l'altro oggi lo sapremo presto perché per effetto dell'entrata in vigore dell'ora solare in Europa domenica scorsa e negli Stati Uniti il prossimo 2 novembre, da oggi fino al 31 ottobre i mercati americani aprono alle 14:30, quindi appuntamento a fra un'ora. E ovviamente seguiremo passo passo la situazione per tutta la giornata. Ora però veniamo al tema che già vi abbiamo anticipato. Al Festival Internazionale del Film di Roma è stato presentato ieri Il Sangue dei Vinti di Michele Soavi, tratto dall'omonimo romanzo di Giampaolo Pansa. Racconta di esecuzioni e crimini compiuti dai partigiani dopo il 25 aprile del 45 nel cosiddetto triangolo della morte fra Bologna, Modena e Reggio Emilia. Ed è successo come... Naturalmente come il libro omonimo del 2003, si sono riaccese le polemiche. Allora Giampaolo Pansa, sentiamolo al microfono di Paolo Panceri. Le polemiche mi sembrano assolutamente normali, è giusto. Se uno scrive libri, da questi libri viene poi ricavato un film che è molto diverso dal libro, ma che descrive bene, con grande emozione, l'orrore della guerra civile italiana di quel tempo, bene, va bene, è una cosa positiva. Io sono abituato ormai. Sta di fatto comunque che sono passati più di 60 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale e stiamo ancora a discutere di repubblichini, partigiani, chi ha ucciso chi, le faide interne ai repubblichini, le faide interne ai resistenti. Non se ne viene mai fuori, insomma, da questa vicenda. Ma se ne può venire fuori a una condizione che tutte le parti che allora si sono scontrate, i loro eredi, dicono la verità. Mentre invece devo dire che la storiografia resistenziale, che ne in questo modo, così come l'ho vista sotto i miei occhi crescere e svilupparsi negli ultimi 50 anni, diciamo così, che sono quelli da quali io ho cominciato 20 anni a occuparmi di questa cosa, hanno sempre raccontato o delle bugie o delle verità dimezzate, hanno taciuto su troppe cose, e questo non ha fatto altro che alimentare il fuoco che cova ancora sotto la cenere, perché chi è stato sconfitto ha avuto la pietra in bocca, come fanno i mafiosi con le loro vittime, e non hanno mai potuto dire raccontare la loro storia. Il Sangue dei Vinti ha abbattuto un piccolo grande muro che sia. La riprova è che dopo quel libro uscito nel 2003, nei 3 mesi successivi io ho ricevuto 2200 lettere di persone che scrivevano lettere molto diverse fra loro, ma che cominciavano tutte più o meno nello stesso modo: caro Panza, ho letto Il sangue dei vinti, ma non vi ho trovato la mia storia, eccola, gliela racconto. Quindi silenzio obbligato, che adesso non è più così, grazie a Dio. Che senso ha per un ragazzo di 20 anni tutta questa diatriba su un argomento che per lui è lontano almeno due generazioni? Ma io le confesso che non mi interessa quello che pensano i giovani di oggi. Io non scrivo mai i libri né per i giovani né per gli anziani né per i matusalemme. Scrivo un libro quando sento la necessità di farlo, cerco di scriverlo nel modo migliore possibile. Se poi i giovani vogliono leggerlo, tanto di guadagnato. Se non voglio leggere, non ho amici come prima. Questo Gianpaolo Panza. Invece Gianfranco Maris, 87 anni, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Partigiani, è stato deportato a Mauthausen, ha poi combattuto nelle brigate Garibaldi. Sentiamolo sempre al microfono di Paolo Panceri. Soltanto una grande, infinita tristezza tutto questo. Che cosa imputò Panza? Di non fare più della storia. Rumina sulle cose già dette mille volte anche dalle firme fasciste più note, narrate mille volte, perché non è vero che dico una verità che è sconosciuta. Batte un sentiero che è stato ampiamente battuto e che è noto, notissimo. Alle battute finali ormai lo spoglio dei voti in Alto Adige, dove ricordiamo si è votato per le amministrative, scrutinate 481 sezioni su 488 e servono confermarsi i primi dati. Il Partito Popolare Sud Tirolese al limite della maggioranza assoluta alle provinciali di Bolzano, Sud Tirol Volkspartei è accreditata infatti al 48% dei voti. Al secondo posto ci sono però gli autonomisti del partito gemello austriaco di Jörg Haider con il 14,3% dei voti, voti quasi triplicati rispetto alle elezioni del 2003. Terzo partito dell'Alto Adige, primo dei partiti cosiddetti italiani, il Popolo della Libertà con l'8,4%, ma con un risultato inferiore alla somma dei voti di Forza Italia e AN, Partito Democratico al 6%. Andiamo in tutt'altra zona italiana, decisamente al sud. Ci sono stati nuovi sbarchi di immigrati a Lampedusa, in particolare sono 400 i migranti che sono giunti nella nottata. E proprio oggi, per riallacciare la cooperazione Italia-Malta sul contrasto dell'immigrazione clandestina, a La Valletta è annunciato un incontro tra il nostro ministro dell'Interno Roberto Maroni e il suo collega maltese. E a riportarci all'economia il nostro Dizio Radio del lunedì. Alzi la mano chi non ha mai sentito nominare G8, questa sigla, questo acronimo, insomma, sì, appunto una sigla, no, con delle iniziali, oppure in questo caso con una lettera iniziale e con una cifra, con un numero. G8 più o meno tutti sanno che è un gruppo internazionale di paesi, abbiamo sentito parlare per diverso tempo più di G7, poi da un certo punto G8, ma ci spiegherà tra pochissimo Giuseppe Busia, giurista, studioso di diritto costituzionale ed esperto del Sole 24 Ore, esattamente cos'è. E così, Giuseppe, riguarda i paesi più industrializzati, diciamo così, più uno forse da un certo punto in poi. Sì, sono i grandi o gli ex grandi del mondo, forse perché adesso si affacciano altri nuovi, è uno dei problemi del G8 che ci sono nuovi paesi. L'India, la Cina, per esempio. L'India, certo. La Cina. È un consesso internazionale di carattere informale, a differenza delle altre organizzazioni internazionali non possiede delle strutture amministrative stabili, un segretariato permanente, degli uffici per i suoi componenti. Un consiglio. Qualcosa. Un consiglio degli organi, ma è semplicemente una riunione annuale a livello di capi di Stato e di Governo. I capi di Stato e di Governo dei principali paesi dell'Occidente, Canada, Francia, Germania, Giappone, Russia, Gran Bretagna e Stati Uniti, oltre il nostro paese, l'Italia, che si riuniscono in questi vertici dei 7 grandi inizialmente, 8 grandi più la Russia, da quando la Russia si è giunta la Russia, per prendere le decisioni che inizialmente, quando è nato come 7 nel 1975 la prima riunione, riguardavano solo la cooperazione economica e commerciale, e in seguito oggi via via si è espanso riguardando temi di natura politica, di sicurezza, di ambiente, di sviluppo e via dicendo. Quindi sono i grandi paesi dell'Occidente, più la Russia, Occidente in senso lato, che si riuniscono per assumere insieme e coordinarsi in ordine alle decisioni più importanti che riguardano la governance mondiale. Questo con il carattere ancora dell'informalità. La frequenza degli incontri è appunto quella a livello di capi di Stato e di Governo annuale, però in realtà sia nell'incontro annuale che l'anno venturo sarà in Italia, la Maddalena, sì, perché la presidenza di turno, ecco, esiste una rotazione annuale nella presidenza, spetterà all'Italia, si riuniscono e cercano di assumere le decisioni più importanti. Dicevo però, questa riunione principale è preceduta da un lavoro preparatorio che in realtà ha fatto di molteplici riunioni a livello ministeriale di carattere informale che portano alle conclusioni di ogni anno. Quindi è in realtà un organo permanente, un organo che funziona senza strutture, senza strutture formali e segretariato. Grazie Giuseppe Busia, questo finalmente abbiamo capito, è il G8. Roberta Giordano vi dà appuntamento per il prossimo Dizio Radio a lunedì. La crisi dei mercati durerà almeno un anno, non fa sconti il commissario europeo Almunia, e come lui i mercati anche oggi a picco, Milano perde il 4%. Scuola e università in fermento anche oggi, a Roma sfilano in migliaia ma il corteo si spacca. Lo sciopero solo un rito, dice il ministro Gelmini, settimana si annuncia non facile. Sotto sequestro l'ospedale di Vibo Valentia, 33 tra medici e dirigenti sotto accusa, tutto è partito dalla morte di due sedicenni ricoverate. A Bolzano cresce la destra autonomista, quasi triplicata nelle amministrative in Alto Adige, la Volkspartei sotto il 50%. La compagnia aerea italiana alla prova, parte la non-stop coi sindacati per costruire la nuova Alitalia. Il sangue dei vinti fa discutere, Servillo e Verdone fanno sorridere i mille volti della festa del cinema di Roma. Alessio Maurizio e Anna Migliorati in studio, termina qua questa edizione del GR Extra Large, il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Carmelo Lauricella. A domani, come sempre, a partire dalle 13, Extra Large, @radio24.it, se volete scriverci. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.